America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. I think is a real shame, and I think the president's disappointed in a number of people that he thought were loyal to him that weren't. Avete sentito Reince Priebus, il capo di gabinetto della Casa Bianca, ha parlato ieri mattina a Fox News. Dice: è una vergogna che molti deputati repubblicani abbiano semplicemente deciso di non votare la riforma sanitaria. Il presidente è molto deluso, è emerso che molte delle persone che credeva gli fossero fedeli in realtà non lo sono. Beh, ecco, devo dire che la sconfitta di venerdì in Parlamento, il fatto che il presidente Donald Trump, che Paul Ryan, il presidente della Camera, siano stati costretti a ritirare una proposta di legge alla quale avevano lavorato molto a lungo e con molto impegno, beh, continua ad essere il tema dominante. Proprio ieri, a un certo punto, Donald Trump, dopo aver attaccato, pensate, a un certo punto ha attaccato direttamente i democratici, ha detto: se questo progetto di legge non è passato, è colpa dei democratici. E beh, ma è chiaro che i democratici non volevano che passasse, sono stati i repubblicani che in realtà hanno fallito. E dunque alla fine Donald Trump ha preso atto che il Freedom Caucus, che raggruppa i repubblicani conservatori, come dire, ha creato dei problemi non da poco. Ha detto Trump in uno dei suoi tweet, dice: a Washington i democratici se la ridono nel vedere come il Freedom Caucus, con l'aiuto del Club for Growth e Foundation Heritage, che sono due gruppi ultraconservatori, hanno salvato Obamacare. Ecco, il fatto è che Donald Trump non ha niente a che fare con gli ultraconservatori del Partito Repubblicano. Non ha niente a che fare, o comunque ha poco a che fare anche con, diciamo, i conservatori meno estremisti del Partito Repubblicano, che sono favorevoli al libero commercio, che sono favorevoli, questo è un terreno comune, a una riduzione delle tasse, una riduzione del ruolo del governo, ma che vedono con sospetto la continuità di programmi sociali. Comunque, insomma, la riflessione importante che dobbiamo fare è sul contesto politico nel post non voto di venerdì. Sentiamo. We learned a lot about loyalty, we learned a lot about the vote getting process. So it's been certainly for me it's been a very interesting experience. Ecco, Donald Trump qui parla dell'ufficio Valley, dice: abbiamo imparato molto da quanto è successo, abbiamo imparato molto sulla lealtà, sulle dinamiche che esistono nel cercare i voti. Per me, dice, è stata un'esperienza sicuramente interessante. Ecco, devo dire, bisogna augurarsi che Donald Trump abbia capito da questa esperienza che la politica non è un reality show, che le sfumature si posizioni ora dei conservatori, ora dei moderati, del suo stesso partito, perché qui il fallimento del Partito Repubblicano, che è in controllo di Camera, Senato, della Casa Bianca, al primo appuntamento, il vecchio modus operandi di Washington, le divisioni anche all'interno di un partito, hanno finito col prevalere. E dunque le sfumature, quindi Trump deve capire che certe cose non possono essere gestite con un sì o con un no. Non è a capo di un'azienda, è a capo di un paese che riflette posizioni molto diverse. Soprattutto dovrebbe aver preso atto che il motto che lo ha reso celebre, "You are fired", sei licenziato, lo ricorderete, era il suo show televisivo, non funziona. Cosa aveva fatto Trump la settimana scorsa? Aveva minacciato molti dei suoi compagni di partito di killeraggio, questi conservatori che avevano già preso una posizione di voto contraria al progetto di riforma sanitaria, li aveva avvertiti che in caso di ostruzionismo alle elezioni del 2018 sarebbero rimasti a casa. Ecco, molti di loro gli hanno semplicemente risposto con uno sberleffo. Devo dire uno sberleffo brutto, perché con questo fallimento i repubblicani hanno mostrato il peggiore dei comportamenti di cui un partito può rendersi colpevole a Washington, cioè quello di girare a vuoto. L'opinione pubblica questo non lo sopporta, l'opinione pubblica che ha votato per Donald Trump, ha votato per Donald Trump proprio perché si potessero superare questi impasse, si potesse andare oltre l'interesse politico dell'individuo per far prevalere quello del paese. Ecco, non ha funzionato, la crisi è reale, il presidente dice non è colpa di Paul Ryan, in realtà privatamente dice che è colpa di Paul Ryan, il presidente della Camera è in gravissima difficoltà, non ha più la credibilità per controllare il partito, i democratici naturalmente gongolano, vedono che ci sono degli spazi su cui operare, e Trump, beh, insomma, Trump forse deve ripensare al suo libro The Art of the Deal, l'arte dell'affare. Diceva sempre quanto fosse importante partire sempre all'attacco. I colpevoli, secondo lui, chi sono? Beh, sono i politici di professione. Beh, devo dire, questa è la sua tattica di sempre, buttare la colpa sugli altri, come vi dicevo, addirittura l'ha buttata sui democratici, che facevano solo il loro lavoro con la loro base elettorale. Ecco, l'ipotesi, ovviamente, di attaccare sempre è suggestiva. Non è detto, però, che questa volta l'operazione di ribaltare il tavolo riesca. La sua leadership non è riuscita a coagulare quella maggioranza di cui aveva bisogno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Trump ha inanellato alcune sconfitte, due sono quelle venute dai decreti sull'immigrazione e la terza è quella sulla riforma sanitaria, e dunque mi è venuto in mente di Rod Stewart, 3-time loser, perdente tre volte. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!